Ragazzi di Budapest. Ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più adesso. Abbiamo vegliato la notte di cento e più mesi, sognando quest'alba d'ottobre. Quest'alba dei giorni ungheresi, ricordo che avevi un moschetto, su porta in piazza d'aspetto, ricordo tra i libri di scuola, anch'io porterò la pistola, dei giorni sei notti di gloria, durò questa nostra vittoria, al settimo sono arrivato. I russi con i carri armati, i carri ci pestano le onde, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare, sull'orlo di una porta seduto. Ragazza, non dire a mia madre che io morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Guardate il protone che avanti, già chiaro nel primo e secondo, finita è la nostra battaglia, sepolto è l'onore del mondo. Camerata dei buoni, scenderemo dai monti, ragazzi, ragazzi